Il cacciatore di libri. Edizione speciale del Cacciatore di Libri, la rubrica settimanale dedicata a chi ama leggere, che va in onda il sabato intorno alle 8:20 e poi in replica il venerdì successivo dopo il GR delle 21. I consigli di lettura in questa edizione particolare arrivano da voi ascoltatori, da chi ha aderito all'iniziativa di Radio 24 in collaborazione con la Fiera del Libro di Torino, iniziativa che abbiamo chiamato Io in un libro, prendendo spunto dal tema di quest'anno Io e gli altri. E allora, in che romanzo il vostro io si identificato, quale personaggio della letteratura vi somiglia di più? Scrivete una mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Ogni settimana uno di voi potrà aggiudicarsi due biglietti per la fiera, che si svolgerà a Lingotto dal 14 al 18 maggio. L'ascoltatore Lorenzo Lorusso ci ha segnalato L'appendolo di Foucault, il secondo romanzo di Umberto Eco, che era stato pubblicato nell'88. Io amo moltissimo questo libro, anche perché, se vogliamo, in maniera romanzata tenta di descrivere, o meglio di svelare, il mondo per quello che è realmente. Sotto certi punti di vista mi sono anche un po' immedesimato in uno dei tre personaggi principali, non fosse altro proprio per le tematiche messe in gioco e per quella specie di sindrome del complotto che un po' assale tutti gli appassionati di attualità o di storia contemporanea, come lo sono io da qualche anno, mio malgrado. Gli interessi letterari dei nostri ascoltatori sono veramente molto molto vari. Dall'appendolo di Foucault andiamo a Vita di Galileo, l'opera teatrale del drammaturgo tedesco Bertolt Brecht, opera in cui in sostanza si racconta la vita di Galileo con una particolare attenzione al processo fatto dall'Inquisizione e poi alla successiva abiura. Questo testo ci è stato segnalato da Letizia. Mi riconosco nella Vita di Galileo di Bertolt Brecht non per dati della mia vita personale, ma per la mia condizione di essere umano. Lì c'è molto di quello che ci caratterizza: la forza della ragione, il desiderio di assoluto, la ricerca di consolazione nella fede, il coraggio della solitudine. Letizia. Non ha a che fare con personaggi storici realmente esistiti, ma più che altro, diciamo, con personaggi fantastici che hanno popolato la nostra personale storia. E questo è il consiglio di lettura di Gianluca Nicoletti, che dal lunedì al venerdì alle 11 conduce Melog 2.0. Il libro che io consiglierei è un libro che insegna a rileggere tutti i libri più importanti della nostra vita, che sono quelli che ci hanno letto, che abbiamo letto durante la nostra fanciullezza. Il Drago come realtà, i significati storici e metaforici della letteratura fantastica di Silvana De Mari, editore Salani. L'autrice espone una teoria in sé suggestiva e da un punto di vista anche terrificante. Dietro tutte le favole della nostra fanciullezza, Danze e Grete, La Cappuccetto Rosso, Apollicino, esistono delle realtà storiche. Le favole sono delle chiavi di volta, degli strumenti per insegnarci ad affrontare le più spaventose realtà della vita. Hansel e Gretel rischiano di essere mangiati dalla strega perché in un momento storico in cui cominciò a circolare questa fiaba c'erano delle forti carestie in quella particolare zona dell'Europa in cui i genitori erano costretti a mangiarsi i figli perché in realtà non avevano altre proteine a disposizione, come pure la favola di Cenerentola, dalla scarpina di cristallo dal piede piccolissimo, ha origine della Cina lontana in cui le ragazze, per essere degne di avere un marito, avevano i piedi massacrati dalle madri per averli piccolissimi, impossibilitata a fuggire, proprio come la nostra Cenerentola. Dai personaggi delle favole tradizionali al protagonista di avventure moderne, un agente segreto al servizio di Sua Maestà. Beh, avrete sicuramente pensato a James Bond 007, nato dalla penna di Ian Fleming, e invece no. Il nostro ascoltatore Gianluca preferisce un altro agente dei servizi segreti britannici, ossia George Smiley, protagonista di diversi romanzi di John le Carré come La Talpa, Tutti gli uomini di Smiley, Chiamata per il morto, Un delitto di classe. Un personaggio in cui le Carré sicuramente avrà messo qualcosa di sé, visto che lui stesso è stato un agente segreto del Secret Intelligence Service. Ma sentiamo perché Gianluca ce l'ha segnalato. Vorrei consigliare un personaggio invece di un libro. Si tratta di George Smiley, agente dei servizi segreti di Sua Maestà, frutto della penna di John le Carré e protagonista principale in alcuni classici dello spionaggio all'inglese. Antipersonaggio, persona schiva, chiuso nel suo soprabito anche nei giorni d'estate, fisicamente innocuo, l'opposto del prestante 007 di Fleming. Mi piace il suo essere informale, come me. Mi piace il suo sentirsi un po' fuori dal mondo e nello stesso tempo consapevole e partecipe del suo divenire, come me. Mi appassiona il suo problematico approccio anche alle più semplici situazioni della vita quotidiana, come parcheggiare l'auto sotto casa. Brilla solo nella sua intelligenza, peraltro mascherata e usata con parsimonia. Per il resto, a vederlo passeggiare per la strada, lo si direbbe un po' tonto, perso nei suoi pensieri. Come me. Imbranato con le donne, anche quando sono loro a prendere l'iniziativa, e quindi, ancora una volta, come me. Insomma, un personaggio da amare per com'è, non per come dovrebbe essere. Grazie, Gianluca. Giovanna invece ci segnala un romanzo con una protagonista femminile, Mrs. Dalloway, romanzo scritto da Virginia Woolf e pubblicato per la prima volta nel 1925. È la storia di Clarissa Dalloway, che alle 10 del mattino di un mercoledì del giugno del 1923 esce per comprare dei fiori per la festa che darà in serata. Vede un uomo, reduce dalla Prima Guerra Mondiale, che cammina con la moglie. Vanno dallo psicologo perché lui soffre di disturbi mentali. L'uomo deve essere ricoverato in una clinica e per questo si uccide gettandosi da una finestra. La sera, durante la festa, Clarissa verrà a sapere che quell'uomo si è ucciso e, nonostante sia per lei un assoluto sconosciuto, si sente vicina a lui e al suo dolore. Ecco allora un piccolo estratto da Mrs. Dalloway. Dato che noi siamo una razza condannata, incatenata a una nave destinata a naufragare, dato che quasi tutta la faccenda è un cattivo scherzo, facciamo almeno la nostra parte. Mitighiamo le pene dei nostri compagni di sventura, orniamo l'oscuro carcere di fiori e guanciali da viaggio, cerchiamo di essere onesti per quanto è possibile. Ancora la segnalazione di un classico da parte di un'ascoltatrice è Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, pubblicato nel 1940. Il giornalista scrittore raccontava che l'idea di quel romanzo era nata guardando la monotona vita, la routine della redazione giornalistica durante la notte. Molto spesso, raccontava Buzzati, avevo l'idea che quel tran tran dovesse andare avanti senza termine e che mi avrebbe consumato così inutilmente la vita. E in effetti tutto il romanzo è perniato da questa idea della ripetitività e dall'incapacità, insomma, di cambiare le cose, di riuscire o di poter cambiare le cose. Il protagonista è il tenente Giovanni Drogo, giovane pieno di ambizioni che arriva alla fortezza Bastiani. La fortezza è un avamposto militare che domina la desolata pianura chiamata appunto Deserto dei Tartari. La fortezza non ha più alcuna importanza strategica, eppure chi ci vive subisce il fascino e non riesce a lasciarla. Aspetta quasi il momento in cui ci sarà un attacco del nemico. Così anche Drogo finisce per rimanere incastrato dalle abitudini e prigioniero di questo senso di rassegnata attesa. Ecco allora perché la nostra ascoltatrice Alessandra ce l'ha segnalato. C'è un romanzo che mi ha molto colpita proprio per il fatto che mi sono identificata completamente col protagonista. È Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Ne sono rimasta angosciata a tal punto che a tutt'oggi non sono stata in grado di terminarlo. La paura che mi blocca è di conoscere quale sarà la mia fine, a furia, come il protagonista, di non scegliere. E infatti il libro è costruito su un senso di ripetitività e di sinuosa consuetudine che si infiltra fino a non farci più fare scelte coraggiose, ma anzi ad accettare, per inerzia, ciò che ci consuma giorno dopo giorno. Quest'idea mi ha agghiacciata tanto che l'ho tolto dal comodino, rimettendolo sullo scaffale della libreria, dicendomi che riuscirò a terminarlo solo quando riuscirò a dare una svolta alla mia vita. Cordialmente, Alessandra Pisa. E direi di chiudere questa puntata speciale del Cacciatore dei Libri, consigli dati da voi ascoltatori e dai conduttori di Radio 24, con il consiglio di lettura del direttore di Radio 24, Gianfranco Fabi. Un libro che non dovrebbe mancare nella formazione politica ed economica di ogni persona e che per me è stata una guida nel giudizio sulla realtà italiana è Il Buon Governo, saggi di economia e politica di Luigi Einaudi. Luigi Einaudi è stato il primo presidente della Repubblica Italiana dopo essere stato governatore della Banca d'Italia, ma era anche professore, economista, giornalista e uno dei rappresentanti più autorevoli del liberalismo moderno. Questo volume raccoglie un centinaio dei suoi scritti, dei discorsi, dei messaggi e degli articoli che lui chiamava prediche inutili, con particolare attenzione al governo del paese, alla politica fiscale, ai sindacati, alla libertà di stampa. In questo, così come negli altri libri di Einaudi, risalta con forza una visione dello Stato come luogo che dovrebbe garantire la realizzazione della volontà e delle potenzialità di ogni cittadino, in una prospettiva di libertà responsabile e di attiva partecipazione, unita a due fattori ugualmente importanti, come l'efficienza e la forza delle istituzioni, insieme a una giustizia sociale che trova spessore nella capacità di crescere del Paese. Per questa edizione speciale del Cacciatore di Libri è tutto. Vi aspetto, come sempre, ogni sabato intorno alle 8:20 e poi la replica il venerdì successivo alle 21:05. Se volete aderire all'iniziativa di Radio 24 della Fiera del Libro di Torino, Io in un Libro, scrivete una mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Indicate il libro nel quale vi siete identificati di più. Ogni settimana potrete vincere 2 biglietti per la fiera. Anche per oggi è tutto, una buona serata da Alessandra Tedesco.